Siamo con l'autore e attore Mario Perrotta per parlare del suo spettacolo Milite Ignoto, 15-18 al Teatro Palladium a Roma, 9 e 10 aprile. Mario, ben ritrovato. Ciao, ciao, a chi ascolta, ciao. Allora, Mario, per chi è all'ascolto, lo descrivi brevemente? Racconto la prima guerra mondiale attraverso le parole, gli occhi e le emozioni di chi in trincea c'era davvero, cioè del soldato semplice o dei soldati semplici, mi verrebbe da dire, perché lo spettacolo nasce con la volontà di portare a termine un percorso che io frequento da anni sui dialetti italiani, e la prima guerra mondiale era l'occasione perfetta per ragionare su quella commistione di lingue assurda che viene a crearsi in trincea, perché basti pensare ai contadini che venivano da tutte le nostre campagne, da Belluno fino a Trapani, da Lecce a Torino, e provare a pensare che lingue si parlavano in trincea. E lingue che piano piano cominciano a mescolarsi, e dopo un paio d'anni, lo si vede anche nei loro diari, nelle loro lettere, si crea una sorta di koinè, un peranto fatto di dialetti italiani. E io infatti lo spettacolo lo porto avanti per 1 ora e 10, senza mai iniziare una frase in un dialetto e finire nello stesso dialetto. Cambio continuamente geografia linguistica. E avevo voglia di capire appunto come stanno i dialetti italiani uno a fianco all'altro, però avevo bisogno di un'occasione che non fosse solo esercizio di stile, ma che ricalcasse qualcosa di realmente accaduto, come appunto la prima guerra mondiale è stato. Senti, il protagonista, posso aggiungere, visto che lo spettacolo ho avuto modo e la fortuna di vederlo, vive anche in seguito a un trauma bellico, perde la memoria. E, Esatto. è possibile un parallelo rispetto a questo paese, che la memoria sembra averla persa rispetto ai due atroci conflitti del secolo scorso? Sì, la differenza è che il mio milite ignoto, che è appunto chiamato così perché è ignoto anche a se stesso, è incolpevole della sua perdita di memoria, mentre il nostro paese, se è vero che l'ha dimenticato, ed è vero, è colpevolissimo perché sono 100 anni, per esempio, rispetto alla prima guerra mondiale, che portiamo avanti la retorica di stampo fascista d'Annunziano che abbiamo accolto nella nostra storia repubblicana, per la quale quell'evento fu una vittoria, con la quale conquistammo Trento e Trieste, che da sempre volevano diventare italiane. È una menzogna enorme, storicamente smentita da 40 anni, ma le nostre scuole si insegna ancora questo. Allora, finché non ci diciamo che quella fu una carneficina organizzata da un assassino che si chiamava generale Luigi Cadorna, del quale invece ancora le nostre strade, le nostre piazze risuonano, finché non diciamo questo, mi sembra piuttosto che la dimenticanza un'omissione, e l'omissione per sua natura è colpevole. Certo. Allora, materiali di partenza sono stati quelli che hai trovato nell'Archivio Diaristico Nazionale, che rappresenta un patrimonio enorme. Sì, l'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, provincia di Arezzo, è l'archivio di memoria popolare più importante al mondo. È il primo a essere nato, sul suo modello ne sono nati altri in giro per il mondo, e ancora tutti vi fanno riferimento. Ci siamo passati un po' tutti, chi fa il mio tipo di teatro, da me ad Ascanio Celestini, a Marco Paolini, ma a Nanni Moretti, ci siamo passati in tanti dall'archivio, perché trovi le voci della gente vera, le voci di chi quelle vicende le ha vissute davvero e le ha annotate su pezzettini di carta, su diari, negli epistolari. E io avevo bisogno, di solito quando metto in scena qualcosa i cui protagonisti sono ancora vivi, vado a intervistare direttamente loro. In questo caso, purtroppo le questioni anagrafiche mi impedivano di accedere alla fonte diretta, almeno dal punto di vista orale, e quindi mi sono rivolto alla fonte diretta, ma scritta, ai diari, a questo fondo bellissimo che si chiama Fondo Grande Guerra, cui ha fatto riferimento anche l'Espresso per il suo progetto di memoria sugli eventi di quel conflitto bellico. Ho trovato diari, ognuno di loro potrebbe essere un film, sono storie drammaticamente meravigliose, e a un certo punto devi fermarti perché hai l'imbarazzo della scelta, e chi li conosce nel mio spettacolo li sente risuonare continuamente. Tra l'altro è un archivio che è visitabile da chiunque, ci si può fare un giro e trovare veramente la storia del paese, di questo paese, fatta dal basso. Io dico sempre questo, l'archivio di Santo Stefano è la vera storia di questo paese, fatta dal basso, fatta dalla gente comune, dalle loro parole. Sì. Quindi vi invito tra l'altro a visitarlo. Sì, sì. Senti Mario, il lascito di tutte queste voci che attraversano il tuo corpo è che la guerra è una sconfitta. Beh, sfido anche, guarda, anche la retorica militare, se non altro per una questione proprio di facciata, spesso è costretta a dire che la guerra è l'estrema razio. In realtà non è una razio, perché di razionale, di intelligente non c'è più nulla. Le guerre non si vincono, come si fa a dire fu una vittoria? E torniamo poi ai soliti discorsi, sì, ma se uno ha il diritto di difendersi, se viene attaccato, cioè, la guerra comunque è una sconfitta dell'essere umano, che la natura ha dotato di un raziocinio, e quindi la possibilità di confrontarsi. Quando accede alla guerra, accede a una modalità animale, ma neanche perché gli animali, soprattutto della stessa, come dire, gruppi di leoni contro gruppi di leoni, si attaccano, si minacciano, ma non arrivano mai ad ammazzarsi. Sì. Lo capiscono prima, si fermano prima. Siamo l'unica specie che è pronta ad annientare se stessa. Sì, sì, sì. Mario, per chi fosse interessato, ci lasci tutti i riferimenti internet rispetto allo spettacolo e alla tua attività in generale? Il riferimento più semplice è il mio sito, che è il mio nome, marioperrotta.it o.com. E da lì poi si accede alla pagina Facebook, e non uso altri social perché io faccio un lavoro che è carne contro carne o carne con carne dal vivo. I social sono invece l'anestesia della carne, per cui diciamo che mi limito a Facebook solo perché è il minimo indispensabile per dare notizie, per chi vuole seguire appunto dove ci spostiamo, cosa facciamo, ma diciamo che non pubblico altro se non appuntamenti di lavoro, non dico se ho mangiato le polpette, se oggi sono andato in bagno o no. Allora ricordiamo l'appuntamento con Milite Ignoto 15-18 di e con Mario Perrotta al Teatro Palladium a Roma, 9-10 aprile. Mario, è sempre un piacere, ci sentiamo presto. Io. Grazie. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao.